Tutti prima o poi abbiamo fatto l'esperienza della depressione, cioè quell'esperienza mediante la quale ci si trova sia fisicamente che moralmente in uno stato inferiore rispetto alla norma. In questo stato tutto barcolla, ci si sente sprofondare in una situazione insostenibile, la voglia di vivere e di lottare ci abbandona, le situazioni che ci circondano sono staccate come se si vivesse in un altro mondo. In effetti il depresso non partecipa alle situazioni della vita. E se ne è coinvolto per forza di cose, si tratta più di un vegetare meno, cioè una non relazione meno che di un vivere. Tra le tante malattie o disarmonie nell'uomo, chi è incline alla depressione molto raramente risolve il problema alla radice, e spesso i medici non possono fare altro che amministrargli degli psicofarmaci per renderlo meno sensibile agli eventi della vita, eventi verso i quali il depresso non riesce ad avere un giusto rapporto psicologico. Si possono verificare due tipi di depressione. La depressione sorta da circostanze dolorose come la morte di una persona cara o un evento traumatico. E la depressione che non ha nessuna causa apparente e non è in relazione con le circostanze esterne. Come per altre situazioni emotive come la paura, lo stress, l'ansia, anche la depressione, essendo un'esperienza normale che fa parte della nostra esistenza, deve essere considerata e presa nel modo giusto. Ci sono mattine che, senza una minima ragione razionale, mi sveglio depresso, ma questo stato d'animo non mi impedisce di essere felice e riconoscente intellettualmente nei confronti di Cristo Gesù che mi ha creato e amato. In seguito, il mio stato d'animo si allinea con il mio atto di volontà di essere riconoscente. E uno stato di appagamento invade tutto il mio corpo e la mia anima. Essere in pace con se stessi, con Dio e con gli altri è certamente una cura fondamentale per la depressione, anche perché alcuni psicologi hanno notato che la depressione è il segno di una profonda collera. Uno psicologo ha notato che le accuse e l'ira che con ragione i suoi pazienti depressi avrebbero potuto indirizzare contro il loro ambiente, le volgevano contro loro stessi. Concludendo col dire che la depressione è una collera voltata contro il proprio io. Se prendiamo sul serio questa analisi, allora ancora una volta l'Evangelo, cioè il messaggio della pace, è indispensabile a tutti e soprattutto ai depressi. Alcuni pensano che essere depressi sia una questione di carattere, e anche se è vero che vi sono alcuni più propensi alla depressione, uno stato depressivo non è il risultato del carattere. Ippocrate, un filosofo vissuto 400 anni prima di Cristo, classificò gli esseri umani in quattro tipi, secondo il loro temperamento. Die il flemmatico, cioè colui che tende alla flemma, che agisce con lentezza. Die il collerico, colui che è facile all'ira, passionale ed ardente. Die il sanguigno, colui che è ottimista. Die buon tempone. Die il malinconico, colui che è di umore nero, scontento delle miserie e dei mali. Queste diverse caratteristiche e atteggiamenti verso la vita non hanno a che fare con la depressione. Anche se il malinconico e il flemmatico possono essere più inclini alla depressione rispetto al sanguigno o al collerico, perché lo stato depressivo è innanzitutto una depressione spirituale. E poiché esiste uno stretto rapporto tra spiriti, lo dimostra il fatto che anche l'ottimista, cioè il sanguigno, e il collerico che è tendente a vivere appassionatamente possono cadere in depressione. Le ragioni della depressione possono essere tante, ma per quanto sembra assurdo, una ragione è data dal fatto che prendiamo troppo sul serio la vita. Cioè abbiamo delle azioni e reazioni, come se fossimo noi i padroni della situazione, e questa crea depressione. Eppure, nessuno di noi è in grado di essere il padrone di qualsiasi situazione, anche se nelle situazioni possiamo essere parte determinante. Il profeta Geremia, conscio della nostra incapacità di governare e portare a termine ogni obiettivo, disse: O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e non è in potere dell'uomo che cammina il dirigere i suoi passi. Geremia 10.23. Una simile visione della vita produce due reazioni opposte ma complementari. Vi è il massimo sconforto perché si prende coscienza di essere incapace di gestire i propri progetti, le proprie ambizioni, se incapaci di sottrarsi a certi eventi dolorosi e piacevoli. Nel contempo si è coscienti di dipendere totalmente da un Dio di amore che ci ama, e davanti al quale noi abbiamo importanza. È evidente che l'ultimo atteggiamento è possibile solo se ha fede nel Dio che ha creato tutto e dal quale tutto dipende. La fede cristiana dunque non è un'aspirina psicologica per vecchi che non capiscono nulla o per bambini ancora incoscienti, ma è la risposta al grande problema della depressione. Poiché la depressione è prima di tutto un disagio psichico, una disarmonia con se stessi, una collera o un'irritazione contro tutti e tutto, guarito il male spirituale viene guarito anche quello morale. Chi ha posto fede in Cristo non è esente dalla depressione perché prima di essere un credente è un essere umano soggetto, come qualsiasi essere vivente, alle leggi della natura. E dato che la natura umana è soggetta alla corruzione e alla debolezza, anche il credente, se non osserva certe regole, può cadere in depressione e, se trascura anche questo aspetto, può entrare in un stato depressivo. Nella Bibbia, la parola di Dio, viene ricordato il profeta Elia, il quale, dopo aver combattuto da solo contro 850 falsi profeti, fuggì per mettersi in salvo, e dal racconto che segue possiamo comprendere che cadde in depressione. In seguito si fortificò nel suo Dio, ma se rifosse fermato a compiangere se stesso, a vedere tutto negativo, molto probabilmente sarebbe caduto in uno stato depressivo senza via di uscita. Il profeta Isaia non fu il solo, perché anche il re Davide ha conosciuto momenti di depressione, momenti così ben descritti da potercisi immedesimare quando si è depressi. Sono curvo e abbattuto, triste, vado in giro tutto il giorno. I miei fianchi sono infiammati e non fu e nulla d'intatto nel mio corpo. Sono sfinito e depresso, ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio, i miei gemiti non ti sono nascosti. Il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi è venuta meno. Salmo 38.6.10. Uno degli errori di certi credenti è ritenere che la fede in Cristo ci esenti dall'essere depressi o provare momenti di grande sconforto, oppure ritenere che la depressione sia il risultato di una mancanza di fede o di spiritualità. Così, al sentimento della depressione viene aggiunto anche il senso di colpa di non avere il giusto rapporto con Dio, cosicché invece di essere aiutati dalla nostra fede ci sentiamo più colpevoli e più infelici degli increduli. Il Vangelo del benessere e il Vangelo della gioia continua in Cristo e delle continue vittorie secondo i propri punti di vista è un Vangelo che non esiste e che serve solo per chi vuole trovare un'illecita alternativa alle proprie delusioni e amarezze. Il cristiano è colui che gioisce in Cristo, vive una vita condotta dallo Spirito Santo e in pace con tutti e con tutto. Ma sperimenta anche di trovarsi di tanto in tanto in stati d'animo anomali, di essere afflitto, assieme a questo mondo che geme e travaglia. Questo fa di lui un essere umano fra gli umani per aiutare coloro che sono simili a lui. Come aiutare il depresso? Spesso parole di incoraggiamento e di conforto non servono perché il depresso non è nella situazione normale che gli consente di ricevere le parole e di comprendere il loro valore. Come non è neppure in grado di comprendere che chi gli sta parlando cerca di aiutarlo. Ho avuto più volte l'occasione di parlare con dei depressi cronici e ogni volta ho realizzato la mia impotenza. Ho constatato quanto abbiamo bisogno di un intervento da parte di Dio perché possa sbloccare la situazione. Un malato lo puoi confortare, un ignorante lo puoi istruire, un povero lo puoi aiutare, ma cosa si può fare con un depresso? Ho visto dei piccoli risultati con un depresso. Cercando di spingerlo verso la strada della riconoscenza e dell'interessamento del prossimo. In effetti, il depresso vede tutto negativo, è demotivato, ma se riconosce o prende coscienza di essere importante, di avere nonostante tutto tante cose belle, questo è un primo passo verso la guarigione. Ai depressi chiedo di scrivere su un foglio di carta le ragioni per le quali possono essere riconoscenti, partendo dal fatto che esistono e sono circondati da persone che sono loro affezionate. Se poi il depresso è un credente, gli faccio presente tutte le benedizioni che ha ricevuto mettendo la fede in Cristo. In seguito invito il depresso a interessarsi di qualcuno che conosce, di telefonare ad amici e parenti per chiedere loro come stanno, di svolgere un piccolo servizio per qualcuno come fare un commissione, e di andare a trovare chi è anziano o malato. Spesso il depresso è tale anche per egoismo, perché pensa solo a se stesso. Ho letto la testimonianza di disabili che avevano tutte le ragioni per essere depressi, ma trovavano la loro gioia di vivere nell'aiutare coloro che erano peggio di loro. Una cieca disse: «Quando non posso avere la gioia di possedere una cosa, mi rallegro di quello che ho». Questa è una filosofia molto importante per essere felici e appagati, perché non solo ci si libera di fantasie infantili, ma si gode di ciò che è reale. La filosofia è la capacità di apprezzare e godere ciò che si possiede. Non nasce dal nulla, non si può imporre, ma nasce da una reale fede in Cristo. Il salmista disse: «L'Eterno sostiene tutti quelli che cadono e rialza tutti quelli che sono depressi». Salmo 145.14. Visto che il mondo non è in grado di aiutare i depressi, visto che i depressi vengono drogati con farmaci per estraniarli dalla realtà, visto che il depresso è impotente ad aiutare se stesso, perché non proporre la soluzione che Cristo è in grado di sostenere e rialzare i depressi? Perché non proporre che Cristo è il tiramisù della circostanza? E vero che la fede in Cristo non è automaticamente la panacea per tutti i problemi, ma tutti i problemi possono essere aiutati e a volte risolti alla radice mediante il riconoscimento della propria debolezza e il riconoscimento della potenza di Dio. Chi ha realizzato questo può dire che funziona. Marzo 2006. Ellero,